Il nostro però è un paese che è pieno di vitalità da riscoprire, da rimotivare, da entusiasmi da risuscitare. È un paese che ha bisogno di un nuovo progetto, di un nuovo sogno vero, che possa dargli un orizzonte nell'immediato futuro. E nel frattempo deve riuscire a risolvere problemi strutturali che non ha ancora mai voluto affrontare, un po' anche perché facevamo finta di non averli, che riguardano la gestione della sua spesa pubblica, la gestione del suo welfare, il rapporto tra la cittadinanza, la spesa pubblica e la rappresentanza politica, diciamo così. Da questo lato, mi sembra di capire che sia la tua analisi, anche quella del quotidiano nel suo complesso, è che quel che manca veramente in questa manovra è esattamente la strutturalità, cioè l'idea è di provvedimenti emergenziali per tamponare un problema con i mercati, cercare di rassicurarli, ma senza affrontare quelli che sono i nodi. Sì, l'idea è proprio quella, che in 48 ore si è dovuta correggere una manovra che raccontava di un paese tutto rose e viole, con il beneplacito dell'Europa, perché effettivamente l'Europa aveva avallato il nostro quadro macroeconomico di riferimento. Però, insomma, si è cercato di tamponare e di trovare in tutta fretta un po' di risorse. Sono indicati 6 miliardi di tagli ai ministeri, ma non è precisato quali saranno. Quindi probabilmente ci sarà una mannaia che si abbatterà in modo indistinto e non sufficientemente dettagliato e analitico. È prevista una specie di scippo del TFR, che è nient'altro che una partita di giro, perché è un risparmio biennale nelle uscite di cassa, ma che diventa il doppio non appena il TFR dovrà comunque essere erogato, perché è un diritto. È previsto un'operazione di supertassa, super IRPEF, di cui abbiamo abbondantemente parlato e di cui avete parlato anche voi tante volte, che però sembra essere stata disegnata un pochino di fretta su una presunta categoria di contribuenti iperricchi, che sono 600.000 eroi fiscali, li chiamo io, che certo hanno sicuramente redditi molto cospicui, ma non credo che debbano farsi carico da soli di tutta l'operazione di risanamento del paese. Non c'è nulla sulle pensioni, non c'è niente su un'operazione che però sarebbe stata importante, di trasferimento della fiscalità sulle cose, sui consumi. Non c'è niente sull'IVA, che invece renderebbe molto. Ripeto, non c'è nulla sul welfare, sull'aggiustamento delle pensioni di anzianità e gli squilibri che comunque all'interno del sistema ci sono ancora molto forti.